Quando ero bambino, la scuola istruiva la cultura mediante la memorizzazione di molte poesie e vari brani letterari di importanza formativa, in modo decisamente maggiore di quanto non sia fatto oggi. Io, che non ho mai posseduto la dote naturale di memorizzare, mi trovavo spesso in difficoltà. Così, per ovviare a questa mia lacuna, avevo escogitato un metodo molto semplice. Mi copiavo ciò che dovevo imparare su un foglio, e al mattino appena sveglio lo leggevo, come lo leggevo alla sera, prima di addormentarmi. Inoltre, durante il giorno, mentre giocavo, passeggiavo, prendevo lo scritto. Davo una ripassata e continuavo le mie attività. Spesso i risultati erano invidiabili. Quando mi arresi a Cristo ed entrai a far parte della famiglia di Dio, mi resi subito conto che dovevo imparare a memoria in ordine cronologico i 66 libri della Bibbia, perché spesso ero l'ultimo a trovarli. E così mi copiai su di un pezzo di carta i nomi dei libri, e ogni tanto li leggevo, come facevo esattamente a scuola da bambino. In poco tempo arrivai a memorizzarli e credo proprio di non dimenticarli mai più. Alcuni pensano che sia difficile imparare a memoria in ordine cronologico 66 libri, ma Simone, il mio primo nipote, li imparò prima di compiere 6 anni. Dato che al pomeriggio non voleva più dormire, presi l'occasione di fargli ripetere ciò che io dicevo. Ben presto però mi resi conto che c'era un altro esercizio di memoria ben più importante, quello riferito al contenuto della parola di Dio. Lo feci con tutta la mia passione, ed oggi, arrivato alla terza età, ho compreso quanto sia stata saggia la mia decisione giovanile di imparare a memoria la parola di Dio. Voglio qui elencarne almeno 7 motivi. 1. Perché viene ordinato da Dio, Deuteronomio 6.6.7. Queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. È difficile pensare che l'ordine dell'Eterno sia riferito solo al fatto che i comandamenti di Dio devono essere ritenuti nel profondo del nostro essere, perché quando una cosa è preziosa si ricorda a memoria. Pensiamo agli appassionati di calcio che sono in grado di ricordare a memoria centinaia di calciatori, le loro partite e moltissimi particolari della loro vita. Che dire dei giocatori di scacchi che ricordano migliaia di mosse? Così, se un figlio di Dio non ricorda a memoria parti della Sacra Scrittura, è molto da dubitare che ami veramente la volontà di Dio, come è da dubitare se l'impara a memoria solo perché è un ordine. 2. Perché si è felici. Salmo 1.1-2. Beato l'uomo, il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. Per alcuni è difficile comprendere come la memorizzazione della parola di Dio possa rendere felici. Ma la felicità non sta nella conoscenza di ciò che sta scritto, piuttosto mediante la giusta conoscenza. Si evitano tanti dolori. Se io intraprendo un viaggio in una località sconosciuta, è evidente che sarò un po' in ansia per il percorso, o imboccherò inevitabilmente strade sbagliate. Così, la nostra vita, Kulisinita, che è una località a noi sconosciuta senza una guida sicura quale la parola di Dio, sarà tutto un errore con svariati dolori. È vero che molti vivono senza conoscere la parola di Dio, ma le paure, gli stress, invidie, gelosie, odio, vendette, calunnie, sofferenze di ogni genere sono per questi all'ordine del giorno, perché non conoscono i grandi doni che Dio in Cristo offre a tutti gli uomini. La razza umana vive da miserabile perché è ignorante, cioè non è a conoscenza dell'amore di Dio. 3. Perché aiuta a testimoniare Romani 1.1.7. La giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. L'Apostolo Paolo aveva il grande compito di predicare il Vangelo di Cristo Gesù basandosi sui libri dell'Antico Testamento e, perché il suo messaggio fosse ritenuto valevole, doveva citare del continuo ciò che era scritto. Come poteva adempiere al suo compito se non conoscendo a memoria la legge di Dio? Allo stesso modo, com'è possibile per un credente parlare di Gesù Cristo se non ritiene a memoria parti della Scrittura? Una cosa è dire "io ti dico", altra è dire "sta scritto nella parola di Dio". Imparare a memoria la parola di Dio è il miglior modo per poterla avere sempre con sé. Ci sono momenti nei quali è proprio impossibile avere con sé la Bibbia, per esempio quando ci si trova all'improvviso davanti ad un malato che probabilmente si vede per l'ultima volta e al quale si vorrebbero citare alcune promesse di Dio. Come fare? Ma avendone memorizzate alcune importanti, allora si potrà dare qualcosa di portata eterna. In certi momenti denaro e parole umane sono senza valore e chi reca nel proprio cuore parti della scrittura ha un tesoro veramente inestimabile. Che dire poi quando si vuole testimoniare di Gesù? Milioni di persone si sono arrese all'amore di Dio in Cristo per avere sentito una sola citazione della parola di Dio, perché il miglior modo per poter dare valore alle proprie parole è ripetere innanzitutto ciò che Dio ha detto. La parola di Dio è potente di salvare il peccatore, non le nostre argomentazioni. 4. Perché consola Salmo 94.1-6-19? Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori d'iniquità? Se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Tutti, indistintamente, ci siamo trovati e ci troveremo in situazioni dove abbiamo bisogno di essere consolati. Anche il salmista si era trovato spesso a confronto con gente malvagia, situazioni che lo rendevano instabile e angosciato. Eppure, quando era oltremodo preoccupato, riportava alla sua mente le consolazioni di Dio e riprendeva forza e vitalità. Le consolazioni di Dio dove si trovano? Nella sua parola, nella quale ha fatto scrivere tantissime promesse. Gesù disse, io sarò sempre con voi. Paolo scrisse che nessuna situazione della vita, per quanto brutta, ci separerà dall'amore di Dio in Cristo. A chi pone fede in Lui, Gesù ha promesso la certezza della vita eterna. Una pace che il mondo non conosce, una gioia infinita e una sapienza non terrena. Come posso essere consolato al momento opportuno se non ho in mente le promesse di Dio? Un giorno ero sbattuto da vari problemi, da varie preoccupazioni, quando ecco venirmi in mente ciò che ha detto il salmista. La mia anima subito trovò riposo e ripresi il cammino correndo come prima. 5. Aiuta a pregare come si conviene, Giovanni 15.7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gesù ha promesso l'esaudimento delle nostre preghiere a condizione che le sue parole dimorino in noi. Cosa significa che le parole devono dimorare in noi? Per prima cosa che le abbiamo costantemente presenti nella mente, questo significa averle imparate a memoria. E poi che le mettiamo in pratica, cosa possibile solo avendole costantemente nel pensiero. Così, non è sufficiente pregare Dio come alcuni pensano, quasi la preghiera fosse una chiave magica per aprire tutte le porte. Ma le parole che escono dalla nostra bocca devono contenere la volontà di Dio, secondo come è espressa nella sua parola. In definitiva Gesù ci chiede di chiedere ciò che Lui vuole. Questo, per persone come noi così egoiste, non solo è difficile, ma difficilissimo. Perciò, l'unico rimedio per poter pregare come si conviene RM 8.23 o pregare con efficacia GC 5.16 è imparare a memoria la parola di Dio. 6. E un aiuto nelle tentazioni, menne in no, 4.1.11. Gesù disse al diavolo, sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. E, fuori discussione, che Gesù era un uomo a tutti gli effetti, sottoposto alle tentazioni come ogni altro essere umano, ma non commise mai un errore o un peccato. Si potrebbe dedurre che la ragione provenisse dal fatto che era figlio di Dio o che aveva anche una natura divina, ma se fosse stato solo così, si sarebbe trattato di un privilegiato e non avrebbe potuto compiere l'opera di salvezza. Invece la perfezione di Gesù è data anche dal fatto che, come uomo, conosceva a memoria tutta la parola di Dio. Infatti, davanti al diavolo che lo tentava a confidare in se stesso e inorgoglirsi, Gesù cita per 3 volte la parola di Dio, indicando al tentatore l'illegittimità delle sue richieste. Così deve essere del cristiano. Ogni volta che gli si presenta qualche occasione poco chiara o compromettente, ricordando quale deve essere il suo comportamento secondo la parola di Dio, può anche non cadere nell'errore. Ma se non ha presente la volontà di Dio, come può un credente ubbidire? Ricordare la parola di Dio non è dunque un optional o un lusso solo per alcuni, ma indispensabile per tutti per sapere come comportarsi ad ogni istante della vita e soprattutto per vincere le tentazioni. 7. È la nostra stessa vita, Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi. Per un certo numero di anni ho ricordato a memoria senza la minima fatica quasi tutta la parola di Dio. Per alcuni brani ho messo dell'impegno, ma molti altri erano scesi nel profondo del mio essere, al punto di far parte di me. Mi facevo paura da solo, io che meno ho saputo e risaputo, meno ho una memoria inferiore alla media. Eppure, senza rendermi conto, la parola di Dio è stata la mia sapienza, il mio aiuto, il mio benessere fisico e mentale, oltre allo strumento per portare molte anime a Cristo e edificare la Chiesa di Dio. Devo testimoniare che senza la parola di Dio sarei uno dei peggiori relitti dell'umanità e forse ora non sarei più, perché sarei arrivato all'estremo gesto del suicidio. Questo aspetto mi porta ad avere una grande comprensione e compassione verso gli increduli che non conoscono Gesù Cristo e un insaziabile desiderio di portare a loro la potente parola di Dio, perché essa è la risposta a qualsiasi dolore e problematica dell'umanità. La parola di Dio per me è dunque la mia stessa vita e anche fonte di gioia e di dolore. Di dolore perché vorrei che ogni persona la conoscesse personalmente. Di gioia perché dopo la mia morte essa sarà ancora predicata fino alla fine dei tempi. Cosa voglio di più? Maggio 2008, Ellero.